Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio, l'ultima puntata della settimana. Magari qualcuno di voi tira anche un sospiro di sollievo, qualcuno sentirà la nostra mancanza in questo weekend. Insomma, invece, per tutti coloro che sono appassionati, e so che siete in tanti, alla tematica della casa, oggi abbiamo un altro appuntamento per voi. Acquistare un immobile certificato sotto il profilo della sicurezza e del risparmio energetico è sempre più importante sia dal punto di vista economico che ambientale. Il settore, la materia, come sapete bene perché a questo dedichiamo tantissime puntate, è stato toccato da molti interventi normativi più o meno recentemente. Altri interventi presumibilmente ne arriveranno. Perché? Perché intanto è in arrivo questa direttiva europea che impone costruzioni verdi, tra virgolette, entro il 2020. E allora anche l'Italia sta mettendo in atto tutte le misure necessarie per non arrivare impreparata a questa scadenza. Vi faccio alcuni esempi. Dal 1 luglio dello scorso anno, anche a questo è stato un tema a cui abbiamo dedicato tante trasmissioni, è arrivato il bollino verde per l'immobile in caso di compravendita di singole unità immobiliari. Chi vende, a seconda ovviamente poi della regione in cui abita, perché le discipline regionali sono diverse, deve presentare un attestato che certifichi il rendimento energetico dell'edificio. E poi altre normative recenti sono stati varati, lo ricorderete, in aprile gli incentivi per la costruzione e l'acquisto di case ecologiche. E insomma, è una materia molto vasta, molto complessa. E allora, per fare un po' di chiarezza, è stata presentata mercoledì a Roma una guida per il cittadino dedicata alle nuove norme relative agli edifici sotto il profilo della sicurezza e del risparmio energetico, che consentono all'acquirente di un immobile di conoscere la qualità di questo e anche eventualmente la spesa da sostenere per la sua gestione. Allora, la pubblicazione è la sesta della serie ed è stata ed è un lavoro congiunto tra il Consiglio Nazionale del Notariato e 12 associazioni dei consumatori. Noi oggi vi presenteremo la guida, ma soprattutto risponderemo alle vostre domande sull'argomento con un'amica di Salva Danaio, perché ormai posso definirla così, notaio Giulia Clarizio, membro del Consiglio Nazionale del Notariato, oltre che autrice materiale della guida, credo, tra l'altro insieme ovviamente anche agli esperti delle associazioni dei consumatori. Notaio, bentornata a Salva Danaio. Grazie, sono molto contenta di essere con voi, mi fa molto piacere parlare di questa guida, una guida verde, ha un colore brillante, lo potete bianco, vedere. Bianco, verde, quasi colori di Radio 24, notaio, ce ne sono alcuni, insomma. E potete scaricarla gratuitamente, oltre che dai siti delle associazioni dei consumatori, anche dal nuovo sito del notariato, che tra l'altro ha avuto un restyling ultimamente, www.notariato.it. Poi ricorderemo magari anche i temi delle sei guide precedenti, perché si partì qualche anno fa con il mutuo, c'è stato il restyling della guida sul mutuo, con tutte le novità che sono arrivate con Bersani e quant'altro, e poi la guida al preliminare, l'acquisto degli immobili in costruzione, anche questo è un aspetto molto importante, ci siamo andati anche con Salva Danaio su questi argomenti. Oggi parliamo proprio invece della compravendita dell'immobile e della certificazione energetica su questo. Non abbiamo un tecnico, come dire, architetto piuttosto che ingegnere, oggi ci vorremmo soffermare proprio su quegli adempimenti che è necessario rispettare nel momento in cui si va alla compravendita. Abbiamo un notaio, quindi ecco, state attenti anche sugli aspetti che vorremmo affrontare oggi, che saranno presumibilmente come sempre oggetto delle vostre domande all'800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure potete scriverci al 349 238 6666. Diamo un'occhiata alla borsa prima di partire con la nostra chiacchierata con notaio Clarizio. La borsa stamattina è positiva ovunque, un po' più sottotono, Piazza Affari più 0,21%, ma ieri Milano ha guadagnato 4,5 punti, molto bene anche le piazze europee, ieri molto bene anche Wall Street. Cosa è successo? Che la Cina ha rassicurato gli investitori mondiali dicendo: non abbiamo nessuna intenzione di alleggerire la nostra posizione di riserve di titoli di Stato governativi europei, di titoli Stato europei, per cui questo ha rassicurato un po' gli investitori, perché se la Cina comincia a vendere bond europei, titoli di Stato appunto delle economie dell'Eurozona, siamo a posto, data la crisi recente che ci ha attraversato, che probabilmente non è ancora terminata a causa della Grecia, ma insomma anche altri Stati sono in difficoltà finanziarie, il Portogallo, la Spagna, anche l'Italia ogni tanto viene presa di mira dagli investitori e dagli speculatori, per cui questa presa di posizione rassicurante della Cina ha rassicurato tutto il mercato. Ha rassicurato anche l'euro sul dollaro, che è risalito sopra la soglia di 1,24. I migliori titoli di Milano: Telecom più 2,45 a Fondiaria, in rialzo di 1,5 punti, il Banco Popolare più 1,34, Ansaldo più 1,31, Italcementi più 1,22. Invece stamattina grossa difficoltà per Finmeccanica, che perde il 3,82% sui giornali di di questa mattina le notizie relative a questa indagine della Procura di Roma su fondi neri all'estero. Il gruppo ha smentito di essere al centro di un meccanismo di questo tipo, ampiamente ricostruito dai giornali. In ogni caso, gli investitori ne approfittano per lasciare appunto le azioni di Finmeccanica. In calo di un punto anche Saipem, Azimut meno 0,7, Bulgari meno 0,6%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo sulla certificazione energetica degli immobili, ma di tanti altri aspetti anche che sono al centro della nuova guida del Consiglio Nazionale del Notariato e di 12 associazioni dei consumatori, la guida all'acquisto certificato. Ambiente e portafogli. L'acquisto di una casa ecologica dotata di documentazione che ne certifichi la classe energetica consente di conoscere in anticipo la qualità di un immobile da acquistare e la spesa che si dovrà sostenere per la sua gestione. Pochi sanno, ad esempio, che per un appartamento di 120 metri quadrati la differenza tra una classe energetica G, bassa qualità, e B, buona qualità, può comportare una differenza nella spesa per il riscaldamento di quasi 2.000 euro l'anno. Anche per questa ragione, già alla stipula del preliminare d'acquisto, un aspetto che deve essere considerato con attenzione e che invece viene spesso ignorato è quello relativo alla documentazione rilasciata dal venditore. Tra gli altri, il certificato di abilità dell'immobile, che attesta l'idoneità dell'edificio sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del risparmio energetico, i documenti relativi alla certificazione degli impianti e quelli relativi al rendimento energetico dell'edificio. 800 24 0024, cominciate a prenotare al numero verde i vostri interventi, ma intanto io con il notaio Clarizio comincio la mia chiacchierata. Nella guida ho visto, notaio, che vengono toccati tre grandi ambiti: l'agibilità dell'immobile, gli impianti, la dichiarazione di conformità e poi tutta la parte sulla certificazione energetica, quindi tre grandi macro aree, diciamo. Sì, noi ci siamo occupati con le guide di cui stavamo parlando prima di quella che era la sicurezza, chiamiamola giuridica, del contratto sia preliminare e poi il definitivo tra le parti. In questo caso abbiamo cominciato ad esaminare l'oggetto di questa compravendita, la casa, quella casa per la quale abbiamo fatto tanti sacrifici nel momento in cui siamo andati a comprarla, che l'abbiamo scelta. E allora abbiamo voluto dire alle persone che la vogliono scegliere questa casa che non devono soltanto controllare qual è l'esposizione, o anche forse anche quella, perché anche quella poi farà parte della certificazione energetica. C'è una bella illuminazione tutto il giorno. O comunque diciamo se è vicina alla scuola o al posto di lavoro. Dobbiamo anche vedere quali sono le qualità intrinseche di questo oggetto. E come facciamo? Cominciamo con tutto il discorso sull'abitabilità. L'abitabilità non dobbiamo pensare che ci dica che è conforme alle norme urbanistiche. L'abitabilità ci dirà se quella casa, quel negozio, quell'ufficio hanno effettivamente la possibilità di essere utilizzati per quello per il quale noi lo vogliamo comprare, no, quindi è molto importante. Tra l'altro io la interrompo subito, ma io mi sono molto incuriosita quando ho letto questa parte sul certificato dell'agibilità dell'immobile, perché lo diamo abbastanza per scontato nel momento in cui andiamo incontro ad una compravendita. Magari ci poniamo questo problema se vogliamo, una particolare mansarda piuttosto che un ambiente che in passato era stato adibito a determinati. Stamattina leggevo sul Corriere o su Repubblica, non mi ricordo, che vanno molto di moda gli acquisti adesso di ex negozi dove molti stanno costruendo comunque la propria abitazione, per cui forse per questi contesti pensavo che fosse un problema, invece lo è per tutti, non è soltanto quando andiamo a comprare un loft o quando ci vogliamo avere un'abitazione in un locale che abbia un qualcosa di diverso, oppure come appunto ricordavi proprio quando si parlava di mansarde. No, l'abitabilità tra l'altro non è così automatica, non viene rilasciata immediatamente, a volte viene rilasciata e quindi il comune rilascia questo certificato, oppure alcune volte dobbiamo aspettare che trascorra il tempo e se non ci sono delle opposizioni da parte del comune si realizza quello che noi chiamiamo il silenzio assenso, e quindi vuol dire che l'abitabilità è stata rilasciata. Questo è importante perché nasce questo concetto di certificato di abitabilità quando si parlava della salubrità degli ambienti. Per cui questa è una delle prime cose che viene controllata, ma anche il fatto che sia idonea per l'utilizzo che noi ne vogliamo fare, quindi per l'abitazione. Questo cosa significa? Che non è che non si possa comprare una casa che non abbia l'abitabilità, ma noi dobbiamo sapere bene perché non c'è, solo perché ancora la casa non è finita, e allora possiamo impegnare il venditore a darci l'abitabilità entro un certo tempo, oppure possiamo decidere di aspettare di comprare la casa fino a che l'abitabilità non c'è. Se l'abitabilità non c'è perché la richiesta è stata presentata il giorno giorno stesso che abbiamo fatto l'atto, non siamo sicuri che l'abitabilità poi venga rilasciata, a meno che ad esempio non sia stata rilasciata per l'appartamento del piano di sopra, che ha le stesse identiche caratteristiche. Ricordiamo che la rilascia il comune. La rilascia il comune, sì. Quindi è importante sapere che cosa garantisce, e quindi non pensare che garantisca cose che non ha mai garantito, come il discorso della conformità urbanistica ai progetti, ma anche sapere se effettivamente la vogliamo oppure stiamo esonerando il venditore da darcela in quel momento, perché tutto in fondo è contrattabile, le parti possono anche decidere cose, diciamo, diverse da quelle che noi immaginiamo. L'importante è che si sia tutti consapevoli di quello a cui si va incontro, che si conoscano le realtà dell'immobile che stiamo comprando e che magari questo abbia fatto parte della contrattazione del prezzo. Lo stesso vale, diciamo, quindi il filone è lo stesso: quali sono le qualità dell'immobile e come noi ci vogliamo regolare. Lo stesso vale per gli impianti. In fondo, se noi compriamo una casa vecchia con degli impianti che sappiamo che vogliamo rifare completamente, ci può andare anche bene di comprarla così com'è. Certo, ricordiamoci che esistono delle norme di sicurezza minima. Io dico sempre che almeno ci sia una presa a terra, che io non entri dentro casa e salto per aria. Non credo che ci sia nessun acquirente disposto a non avere almeno questa garanzia minima da parte del venditore. Però anche in questo caso è importante sapere come stanno le cose, regolamentarle e chiarire benissimo qual è la garanzia del venditore. Perché tutto può essere oggetto di contrattazione, quindi magari possiamo spuntare anche un piccolo sconticino sul prezzo, anche perché, appunto, ribadiamo che nel certificato di agibilità dell'immobile, nella dichiarazione di conformità relativa agli impianti, sono condizioni per la validità degli atti di compravendita. Perfetto. Ecco, l'ho letta la guida notaio che devo... È sempre bravissima. No, e quindi, insomma, per il fatto che magari non c'è questo obbligo di allegare a rogito questa documentazione, allora è chiaro che lì può essere oggetto un po' più di discussione prima tra venditore e acquirente, ma... Però non dobbiamo neanche entrare in una, diciamo, con una superficialità eccessiva. Cioè, il fatto che l'atto si possa comunque fare non vuol dire che l'atto vada fatto senza prendere in considerazione questi aspetti. È come se io comprassi una casa a scatola chiusa. A volte noi andiamo a comprare degli oggetti di uso comune, facciamo disperare la commessa perché vogliamo sapere di tutto e di più, e poi magari compriamo casa firmando un preliminare. Questo è un discorso vecchio che abbiamo fatto tante volte. La tappezzeria dell'aria. Auto e poi ecco, e per poi la casa firmiamo il preliminare, il mutuo, senza renderci conto di come stanno le cose. Quindi tutti gli aspetti vanno approfonditi. Queste guide vogliono questo. Certo, devo confessarle che ho comprato casa nel 2004, non facevo salvadanaio, e oggi quanti morsi mi darei al gomito per quanta poca accuratezza ho avuto in quell'acquisto. Purtroppo lo devo ammettere, però insomma adesso non rifarei gli stessi errori, magari chissà che non possa comprare un giorno una casa più grande. Rivendiamo questa e ne compriamo un'altra. Esattamente, e lì ci sarà da ridere perché devo poi vedermela con l'acquirente. Salvadanaio torna in diretta, questa mattina vi presenta la guida, l'acquisto certificato, agibilità, sicurezza ed efficienza energetica degli immobili, è la sesta guida per il cittadino, scritta e redatta in collaborazione tra il Consiglio Nazionale del Notariato e 12 associazioni dei consumatori. Oggi con noi il notaio Giulia Clarizio, membro del Consiglio Nazionale del Notariato e autrice, appunto, anche materiale insieme agli esperti delle associazioni dei consumatori della stesura di questa guida. Abbiamo toccato fino adesso due aspetti che tra l'altro saranno oggetto anche, vedo, di alcune domande dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Ci abbiamo parlato del certificato di agibilità dell'immobile, degli impianti, della dichiarazione di conformità. Ci manca ancora tutta la parte che è stata oggetto soprattutto negli ultimi anni di un proliferare di norme che hanno anche un po' messo in difficoltà acquirenti e compratori, e però sono aspetti molto importanti. Stiamo parlando della certificazione energetica degli immobili. Allora, cominciamo a sentire, notaio, qualche domanda. Cominciamo con Nicola da Barletta. Buongiorno. Buongiorno. Cominciamo con il sud. Buongiorno, buongiorno Nicola. A tutti. Ci dica. Siccome io ho acquistato un appartamento a fine anno scorso, e questa è una costruzione fatta già da 5 anni prima, sì, e mi hanno detto che non entrava nel sistema energetico, termoacustico, eccetera, e il notaio non ha neanche menzionato questo. E quindi lei, insomma, comunque... Il certificato di agibilità noi non l'abbiamo avuto, abbiamo fatto l'atto, eccetera, ma non abbiamo avuto niente di tutto. Nicola, sentiamo un po' il notaio che cosa ne pensa rispetto, intanto magari anche, mi interessa anche capire magari in questo frangente qua, il notaio che tipo di informazioni ci dobbiamo aspettare da lui, perché anche lì, errori fatti da me, io l'ho conosciuto il giorno del rogito. Sbagliatissimo. Ecco, allora, avevo sentito per telefono che mi aveva già detto, preannunciato quanto avrei dovuto sborsare in quella giornata. Ma il guaio è che in questo momento sta succedendo sempre di più, che a volte le persone si rivolgono a noi magari per telefono e solo per avere un preventivo. Questo è sbagliato, perché un preventivo, tra l'altro, senza avere assolutamente nessuna indicazione, si fa anche fatica a farlo, ma soprattutto non si ha la possibilità di instaurare un rapporto, una vera relazione. Dal notaio bisognerebbe andarci quando si comincia a pensare che si vuole andare a comprare una casa, quindi prima ancora di averla trovata, prima ancora di essere passati in agenzia a averla trovata, e poi comunque tornarci prima di firmare il preliminare, in modo da sapere che cosa, a che cosa dobbiamo stare attenti. Con queste guide noi cerchiamo di supplire a questa mancanza di contatto diretto con il notaio, e quindi cerchiamo di suscitare interesse per le cose fondamentali. Il signor Nicola, mi sembra, sì, del Barletta, sì, dice che ha acquistato tanto tempo fa e non ha mai avuto il certificato di agibilità. Fine dell'anno scorso. Ma è probabile che non sia stato mai rilasciato un pezzo di carta come certificato, ma si sia realizzato. No, perché adesso non vorrei neanche generare il panico fra i nostri ascoltatori, perché tutti vanno a guardare magari nel rogito firmato l'anno scorso, 2 anni fa, e questo documento non c'è. Ma diciamo che potrebbe essere stata fatta, molto probabilmente, perché la maggior parte dei casi non è che viene rilasciata materialmente, ma si è realizzata con il cosiddetto silenzio assenso, nel senso che il costruttore ha fatto la richiesta e quindi poi è passato un certo periodo di tempo, che sono 30 giorni in alcuni casi, 60 giorni in altri casi, quindi il massimo è 60 giorni. Se non c'è stato un rifiuto, se non c'è stato un'opposizione da parte del comune, vuol dire che tutto a posto, e quindi l'abitabilità è stata, c'è, rilasciata. Per cui questo è il motivo per cui Nicola non ha questo documento. Assolutamente, speriamo che sia così. Ecco, poi magari a quali altri documenti si può riferire, perché lui dice il notaio non mi ha detto niente sul tema della classe energetica, però per esempio il 1° luglio dell'anno scorso una cosa importante è avvenuta. L'anno scorso si è cominciato ad avere, allora intanto noi dobbiamo ricordarci una cosa, che questa non è una normativa che è scoppiata il 1° luglio dell'anno scorso, quando tutti siamo entrati un po' nel panico perché non sapevamo se dovevamo allegare questo certificato, chi lo faceva e chi lo rilasciava. In realtà si sta parlando di un qualcosa di molto antico, stiamo risalendo al 2005, stiamo parlando di un discorso di cui abbiamo sentito parlare tante volte, nel senso che dobbiamo contingentare il nostro consumo energetico, che il sistema terra corre dei rischi. Di questo magari sentiamo parlare soltanto quando la domenica non possiamo prendere la macchina e andiamo in bicicletta. Diciamo, in quella stessa occasione avremmo dovuto sentir dire che anche le nostre abitazioni devono cercare di consumare di meno, né più né meno poi come in fondo succede per gli elettrodomestici, per cui quando li andiamo a comprare sappiamo qual è il loro consumo. Così per le case noi adesso abbiamo una catalogazione, sappiamo se vanno dalla serie A fino alla serie G, vuol dire che se sono di serie A consumeranno molto ma molto meno delle altre, sia per essere rinfrescate che per essere riscaldate, il che significa anche conoscere meglio, come dicevamo all'inizio, l'oggetto che andiamo ad acquistare, conoscerne il valore, poterlo contrattare sia per quanto riguarda il venditore sia per quanto riguarda l'acquirente, quando lo poi andrà a rivendere. Allora, è obbligatorio allegarlo all'atto? Questo obbligo non esiste. È obbligatorio che l'acquirente e il venditore parlino di questo certificato energetico, che per gli immobili che sono, diciamo, di nuova costruzione, successivi al 2008 eccetera, saranno assolutamente necessari, perché già in sede di progetto devono essere presentate e devono essere rispettate alcune regole di costruzione, per cui poi l'abitabilità non verrà rilasciata se non c'è stato questo certificato. Per quelle più vecchie invece è opportuno, cioè è obbligatorio, che il venditore si doti di questo certificato, anche perché l'acquirente e il venditore capiscano di che categoria si sia. L'unica esclusione importante, adesso non sto entrare nel particolare, di questa certificazione è quando effettivamente noi riconosciamo che si tratta di un'abitazione scadente, potremmo dire, talmente scadente che non vale la pena di spenderci per vedere di che categoria è. Allora a questo punto il venditore può fare un'autodichiarazione, assumendosi la responsabilità anche penale delle dichiarazioni che fa, l'acquirente l'accetta e dichiara che si tratta di un fabbricato di serie G, quindi l'ultimo, il più scadente. L'unica cosa a cui voglio far presente è quella, come dicevamo all'inizio, che in fondo si tratta di qualità insite dell'immobile sulla quale la parte venditrice e la parte acquirente devono incontrarsi e devono soprattutto prima capire come stanno le cose, in base a questo scegliere le soluzioni migliori. Mi veniva anche un'altra considerazione, tornando sempre al nostro ascoltatore di Barletta, che comunque le regioni su questo argomento hanno legiferato in maniera diversa, questo ha generato ulteriore confusione, sì, forse anche per voi soprattutto. Sì, assolutamente sì, abbiamo delle linee guida nazionali per la certificazione energetica e noi nella nostra guida a queste ovviamente ci riferiamo, però è opportuno che gli ascoltatori sappiano e si ricordino che ogni regione ha legiferato. Molte regioni hanno legiferato anche in maniera molto più restrittiva, pretendendo l'allegazione del certificato e anche istituendo un albo di quelli che sono i professionisti che possono fare i certificati. C'è un'altra domanda e anche che molti questo ci fanno, è molto questo. Complesso. Però il notaio della zona dove si va a comprare è assolutamente in grado di dare tutte le spiegazioni necessarie. Allora, chi andiamo adesso? Andiamo a Vincenzo da Roma, l'ho voluto assolutamente, non credo che volesse fare delle domande sull'acquisto certificato, ma in realtà sul blocco di un rogito che avrebbe dovuto farlo oggi. Vincenzo, il notaio le ha detto di no? Salve, buongiorno. Sì. Buongiorno. Quando doveva... Io ieri dovevo andare a assicurare alle 15.30, dovevo comprare, definire una multiproprietà che ho comprato diversi anni fa. Alle 3 la signorina del notaio mi chiama dicendomi che alla luce della nuova normativa varata dal Consiglio dei Ministri, sì, con la nuova manovra, ha detto che non poteva rogitare perché se la doveva finire di reggere bene perché era cambiato qualche cosa. Beh, ha trovato un notaio scrupoloso, Vincenzo, non è che è stato proprio dispetto. No, io sto chiedendo, volevo sapere che cos'è che era cambiato. Che diavoleria sarà successa? Esatto, allora, cioè, togliamo un po'... Come tasse, che esatto, no, anche perché Vincenzo magari nelle sue condizioni si stanno trovando in queste ore altri che vorrebbero definire la compravendita di una casa e il notaio gli ha detto no, guarda, possiamo rimandare tutta la prossima settimana o almeno a quando la manovra sarà in Gazzetta Ufficiale. Che succede? Ai notai, notaio Clarizio. Allora, in questa manovra ci sono delle norme che effettivamente ci riguardano, ci sono delle norme che prevedono alcuni adempimenti ulteriori e specifici per quanto riguarda gli atti, cioè un controllo che il notaio faceva comunque sempre tra la corrispondenza dell'intestazione catastale e la corrispondenza della proprietà vera, diciamo, dell'immobile che risulta da quella che noi chiamiamo i registri pubblici immobiliari, quindi le conservatorie. È impossibile fare l'atto se questa corrispondenza non c'è, almeno da questa norma che ancora però oggi non è stata pubblicata e quindi noi la conosciamo come la conosce il Sole 24 Ore. Infatti, no, adesso capisco perché il notaio non si è avventurato nella spiegazione a Vincenzo, soprattutto perché ci avrebbe capito ben poco. Perché si tratta di una cosa abbastanza complessa e anche di una dichiarazione quindi che il venditore deve fare in cui dichiara che c'è corrispondenza tra questi due dati, il notaio non potrebbe fare l'atto in queste condizioni e poi anche c'è un'ulteriore formalità che è quella della corrispondenza della planimetria catastale, cioè quella che è presso i libroni del catasto, e poi la situazione reale di fatto dell'immobile. Quindi una normativa un po' complessa che abbiamo bisogno intanto di capire come è scritta, perché finché il testo non lo conosciamo facciamo fatica a dare delle spiegazioni e delle soluzioni, e purtroppo siccome nel nostro paese la Gazzetta Ufficiale a volte esce, come è successo l'ultima volta, mi ricordo che era durante una partita dei mondiali, per cui a mezzanotte meno uno non era ancora uscita, l'abbiamo trovata la mattina dopo con la data del giorno precedente, e siccome gli atti magari erano stati fatti, a volte ci sentiamo veramente in prima linea. Questi blitz che spiazzano, questi sono il i motivi molto, per i quali il notaio giustamente e correttamente non ha voluto farle correre a nessun rischio. No, ma mi ha fatto impazzire, perché insomma ha chiamato la segretaria, mi ha detto che blocchiamo l'atto perché il notaio sta finendo di leggere ancora ma la manovra è lunga, quindi lo vediamo impegnato nella lettura. Notaio, ci dobbiamo rimettere le cuffie, eravamo un po' indisciplinate, stavamo chiacchierando e così smistando anche un po' la posta che ci arriva al 349-238-6666 sul tema della locazione. Ci stanno chiedendo delle lucidazioni alcuni ascoltatori. Simonetta da Bologna dice: come si ottiene il certificato energetico per la locazione necessario, notaio? Ma per la locazione era stato escluso E comunque il certificato energetico si ottiene affidandosi, ripeto, nelle regioni dove non c'è l'elenco specifico dei professionisti che lo devono fare, ad un professionista che sia in grado e quindi che sia pratico di impianti, può essere un ingegnere, un geometra, però magari qualcuno così ha la tentazione di contrattare anche sul prezzo della locazione, dice ha il certificato energetico questa casa, anzi, che poi tra l'altro il certificato energetico ce ne sono due di documenti su cui dobbiamo fare una forse precisazione, perché... ma sì, diciamo che quello che a noi interessa è, in realtà è quello dell'attestato di certificazione energetica, perché quello che ci interessa è il momento in cui noi andiamo a vendere, a comprare l'immobile. Quello della qualificazione fa parte, diciamo, del procedimento del costruttore nel momento in cui chiede fa tutta la procedura per calcolare i fabbisogni di energia primaria. Sì. Ma quello serve poi per avere la concessione, presentare il progetto, eccetera. Noi andremo a chiedere sempre l'attestato di certificazione energetica che avrà durata per 10 anni. Mm-hmm. Allora, non dobbiamo spaventarci per il prezzo, perché in realtà ho visto che i prezzi non sono così alti, anche perché ci si sta un po' specializzando, e comunque sia i risparmi sono tali che si può ammortizzare ben presto, perché un fabbricato che risparmia effettivamente energia può portare un risparmio anche di 2.000 euro in un anno, quindi in un primo anno. Allo stesso tempo, nel certificato noi sappiamo anche, ci viene anche indicato che cosa possiamo fare per migliorare la nostra categoria, e questi sono effettivamente delle scelte che possono farci risparmiare e anche vivere meglio. Sì. Senza neanche togliere poi tutto il discorso degli incentivi che ci sono nel caso in cui noi dovessimo fare delle opere. Allora, le do l'opportunità di scegliere. C'è una domanda sul 55%, notaio, oppure Giuseppe da Torino, che ci richiede di fare proprio un ABC molto chiaro su tutti i certificati della documentazione che bisogna chiedere al momento dell'acquisto. Cominciamo con Adelio D'Alecco, che aspetta da un po' di più. Adelio, buongiorno, rapidissimo. Buongiorno a lei, signora Deborah, e ai suoi ospiti. Volevo chiedere ancora un'informazione, anche se l'avevo già contattata un po' di tempo fa. Sì. Riguardo, diciamo, le costruzioni in proprio, diciamo, ho costruito io la casa chiamando l'impresa nel 2006, poi per terminarla ci è voluto 2 o 3 anni. Io volevo sapere, dato che ho fatto tutta la certificazione energetica, sia dei vetri bassi emissivo, pavimento per terra, isolamento dei pannelli, isolamento tetto e tutto e così via, no? Volevo sapere se rientravo nel 55% o se era uscita qualche legge, perché lei allora aveva detto che non sapevate ancora com'era la cosa ben precisa e vi dovevate interessare. No, Adelio, allora, le detrazioni del 55% sono gli incentivi che sicuramente terminano a dicembre, a meno che non vadano a proroga, e questo è un punto. Dipende quando lei ha terminato questa costruzione, intanto quindi capire se ha ancora, come dire, facoltà di fare la richiesta. Adelio, ancora in linea? Sì, io ho terminato l'anno scorso avendo l'abitabilità in agosto, nel mese d'agosto, il 19 agosto. Beh, quindi teoricamente, per esempio, con la dichiarazione dei redditi di quest'anno, già se ne avesse diritto, dovrebbe averle. Ma Adelio, non si è fatto seguire da nessun professionista in questo... No, ho chiesto, però non erano sicuri delle leggi, non erano sicuri di niente. Ma guardi, il 55% è un meccanismo consolidato da anni, quindi mi sembra strano, a meno che tipo di incentivo avrà chiesto, mi sembra assolutamente... No, non lo so questo, appunto che le chiedo, perché nel 2006-2007 parlavano già che c'erano questi incentivi così, però non avendo terminato, dicevo, certo, magari non rientro. Però adesso, sentendo, ho detto, magari avendo nel 2008 ad agosto terminato, forse posso rientrare, perché avendo tutto... Nel 2008 o nel 2009, Adelio? 2009, sì. Ecco, 2009. Quindi, allora, per quello, dunque, questo, cioè, se il quadro è così banale e semplice, ha tutto il diritto di chiedere gli incentivi. Uno, quindi vada al commercialista e porti, chiaramente, ovviamente, per un lavoro così complesso, spero che abbia fatto tutti i pagamenti. Il tema è se ha fatto la famosa richiesta a suo tempo. Esatto, bisognerebbe vedere tutta la pratica dall'inizio. Adelio, quindi, allora, di fatto quello che le possiamo dire è che così sulla carta lei ha diritto, e di fatto questi incentivi ci sono ancora fino alla fine dell'anno, però bisognerebbe vedere se lei è partita con la procedura giusta. Esatto. Giuseppe da Torino. Sì, buongiorno signora Deborah. Buongiorno. Buongiorno al notaio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, le domande che volevo porre sinceramente erano due, brevissimo, sarò brevissimo. Allora, la prima era, io sono in procinto nell'acquisto di un immobile sito in Liguria. Questo immobile di costruzione degli anni 80 è disposto su due piani. Il piano superiore è già la costruzione accatastato come appartamento, il piano inferiore era accatastato come locale di sgombero. Mm. L'anno scorso è stata portata una modifica e quindi è stata rilasciata l'abitabilità anche del piano inferiore. Bene. È stata fatta una cucina con un conseguente impianto idraulico ed elettrico. Della ristrutturazione. E quindi volevo, certo, e quindi volevo chiedere al notaio se io devo esigere la documentazione della certificazione dell'impianto elettrico ed idraulico. Poi faccio presente che l'appartamento è in pratica privo di impianto di riscaldamento, quindi chiaramente non avrò la documentazione per il rilascio del certificato. Quindi la ristrutturazione dell'ex locale di sgombero non l'ha fatta lei, Giuseppe? L'ha fatta il venditore? La signora venditrice, sì, esattamente. La seconda domanda era che praticamente questo immobile per me in realtà non è un immobile di residenza, cioè io non andrò a vivere in questo immobile in quanto vivo a Torino, però per me è sempre un acquisto di prima casa. Certo. Di conseguenza chiedevo al notaio se era ancora obbligatorio spostare la residenza. Bravissima. Non sono brava, ci ha scritto anche un messaggio, Giuseppe, lo vedo letto, quindi ho anticipato la domanda. Le rispondiamo subito perché tra l'altro il tempo a nostra disposizione come al solito sta volando. Da cosa partiamo, notaio? Dal locale di sgombero? No, partiamo dalla seconda, così togliamo subito l'illusione che possa avere le agevolazioni prima casa. Agevolazioni prima casa non è obbligatorio andarci a vivere, ma bisogna acquistare nel comune di residenza. Quindi se non ha la residenza in quel comune non può acquistare con le agevolazioni prima casa. Per quanto riguarda invece la prima parte, mi sembra di aver capito che la ristrutturazione del locale piano terra, che quindi è diventata una porzione di tutta l'abitazione, sia avvenuta dopo il 2008, quindi è chiaro che gli impianti saranno stati fatti a norma e quindi deve ricevere non solo le dichiarazioni di conformità ma anche i libretti d'uso. E lì bisogna poi capire se questo locale è stato incorporato in tutta l'abitazione, quindi in un certo senso se è stata ristrutturata tutta l'abitazione, perché se è stata ristrutturata tutta l'abitazione non abbiamo due unità completamente distinte, anche la prima parte forse è stata fatta oggetto di ristrutturazione e quindi anche in quel caso lui può pretendere la certificazione per quanto riguarda gli impianti e le dichiarazioni di conformità. Per quanto riguarda il certificato energetico, la certificazione energetica non riguarda soltanto il riscaldamento, riguarda anche tutti gli impianti, diciamo, che e anche diciamo la stessa tenuta delle finestre, delle porte. Quindi nel momento in cui noi abbiamo il trasferimento di un immobile, lui ha il diritto di chiedere al venditore il certificato energetico, anche che non deve venire allegato all'atto, a meno che non si tratti di una abitazione così scadente che rientri, come abbiamo detto prima, nella famosa serie categoria G. Quindi ribadisco, chiaramente dai nostri microfoni possiamo dare solo degli orientamenti molto generali di massima, perché poi è chiaro, ogni casa è una storia a sé, ogni casa ha le sue caratteristiche, ha la sua storia, ha il suo cumulo di documentazione vecchia e tant'altra nuova da produrre, e però la guida è fatta anche per questo. Infatti mi dispiace, magari a volte sembra che non voglia rispondere, ma non possiamo dare delle risposte troppo precise perché non abbiamo i presupposti per però già per dare. Esempio il fatto che l'ascoltatore che voleva capire se gli incentivi del 55% non sappiamo, intanto gli abbiamo detto che ci sono ancora e che magari ha ancora l'opportunità di fare una richiesta appunto per ottenere questo risparmio. Notaio Clarizio, come sempre un piacere, grazie di essere stata con noi. Il piacere è tutto mio. Scaricate queste guide. 12 associazioni dei consumatori, ci sono tutte le più importanti. Consiglio nazionale del notariato per scaricarvi la guida acquisto certificato. Noi torniamo lunedì con lo speciale pensioni e le novità di questa manovra, che ce la pubblicheranno sicuramente in Gazzetta nelle prossime ore, domenica mattina magari. Grazie, buon fine settimana a tutti.